a Natale. A me questa rapina mi prendeva già male. Che noia, la noia. Stava fuori a far da palo per il maresciallo, un bel regalo, ma quello la paura lo faceva addormentare. Che noia, la noia. Alla banca popolare, alla banca popolare, dubitavo del colpo. Alla banca popolare, alla banca popolare, sospettavo che non fosse il caso. Venduto ai caramba quattro stupidi allocchi, così sui suoi trascorsi chiudevano entrambi gli occhi. Che noia, la noia. Rimesso la pelle, si è fatto crivellare provando a filare, e a terra sanguinante tremava le sue mascelle. Stai tranquilla piccola, non c'è problema. Colpo alla banca popolare, alla banca popolare, dubitavo del colpo. Alla banca popolare, alla banca popolare, sospettavo che non fosse il caso. Oh yeah. capoccia.